Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono ancora Alessandra Fiori, siamo nel 1998 e qui con me c'è lui. Ciao a tutti, sono Franco Schipani, ciao Ale. Ciao Franchi. Allora, oggi vi raccontiamo cosa accadeva in Italia e nel mondo nel 98. E Franchi, quale colonna sonora ci accompagnava? Iniziamo come al solito dal disco più venduto, ascoltato e ballato del 1998. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want to miss a thing dei rocchissimi Aerosmith. Attenzione, perché il cantante, questo che stiamo ascoltando, Steven Tyler, che è il papà di Liv. Esattamente, giusto? Ti vedo preparata. Ecco, non è soltanto Lady Gaga o Madonna o Bruce Springsteen avere del sangue italiano nelle vene, ma questo Steven Tyler, come si chiama? Si chiama Steven Vittorio Tallarico. Tallarico. Originaria la famiglia di Crotone. Quindi scusami, non un italiano qualunque. Un calabrese. Un tuo conterraneo. Un mio conterraneo. Capisco, capisco. Un po' nordista, perché sai, lui è di Crotone. È un po', sì. Di Calabria Nord. Comunque questa è della colonna sonora del film che ha avuto un grandissimo successo nel 1998, che si chiamava Armageddon. Armageddon. Giudizio noi finale. Lo diciamo un po' più... Armageddon. Armageddon, giudizio Armageddon. Finale. C'era sì. Anche Ben Affleck. Sì, no, brutto. Chiaramente. Brutto Ben Affleck, non ci piace. Ma scommetto che mi farai felice e mi vorrai far sentire anche qualcos'altro? Assolutamente sì, perché... Beh, ascolta questo. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. It'll weigh the ammo on it. She's got a silver. E questa è la tua adorata Madonna con Ray of Light. Thank you, Frankie. Settimo album in studio, insomma un grande successo internazionale nel 1998. E prima ancora Will Smith, Getting Wiggy With It, che a questo ma punto... Ma come lo dici bene? Ti piace? Molto, eh? Molto. Beh, insomma, ha avuto un grande successo anche questo brano, addirittura un Grammy Award nel 1999 come Miglior Performance Rap. Ecco, Frankie, allora, mentre Will Smith risuona dappertutto, in America scoppia uno scandalo sessuale che riguarda non una persona qualsiasi, ma il presidente degli Stati Uniti d'America. Bill Clinton è al suo secondo mandato nel 1998 ed è il protagonista del Sexgate. L'altra protagonista, ce lo ricordiamo tutti quanti, credo. Ecco, mi dimenticarla. Beh, si chiama Monica Lewinsky ed è una stagista della Casa Bianca. A metà agosto di questo 98, infatti, viene fuori la notizia della relazione della 23enne Monica con il presidente e dopo alcuni giorni di silenzio il presidente e la First Lady Hillary Clinton si presentano alla sala stampa della Casa Bianca e lì Bill Clinton pronuncia queste parole. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. These allegations are false and I need to go back to work for the American people. Thank you. Non ho avuto rapporti sessuali con questa donna. Non ho chiesto a nessuno di mentire, non una sola volta, mai. Queste accuse sono false. Ecco, Clinton nega il suo coinvolgimento, ma poi, poco dopo, Clinton è costretto a tornare in televisione. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. Clinton quindi ammette che tra lui e Monica Lewinsky ci sono state delle relazioni inappropriate, dice, ma rivendica di non avere mai costretto nessuno a mentire e si dice pronto a prendersi tutte le responsabilità dei suoi errori. Insomma, Clinton ha mentito alla nazione e quindi parte l'impeachment. Alla fine di tutta questa vicenda il Senato giudicherà il presidente non colpevole. Frankie, tu eri in America, te lo ricordi? Ero in America e vedevo spessissimo la Lewinsky che girava per New York con bodyguard e limousine, nota frequentatrice di locali, cioè è diventata una star. Mica un, crimine che, frequentare locali. No, ma sai, lei era una star, era una star alla gara. Ma poi io, sai, capisci, cioè, quando tu pensi a Kennedy, che aveva una liaison con, ma era Marilyn Monroe. Adesso, onestamente, Lewinsky sarà pure sessista, ma non sono sessista, ma insomma, dai, forza. Non mi sembra che sia stata una grande... No, che dici? Fammi sentire qualcosa, Frankie. Allora, ti faccio sentire qualcosa di... Tanto per rimanere in tema di romantico. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. And spaces between us, you have come to show you. Go on. E questa è Celine Dion, My Heart Will Go On. Questa canzone è arrivata al numero uno delle classifiche di tutto il mondo, è diventato il singolo addirittura più venduto. Pensa che nella storia della musica leggera questo singolo è secondo soltanto quello di Whitney Houston, I Will Always Love You, quindi si piazza al secondo posto assoluto. Quindi l'amore paga? L'amore paga. Non sempre. Senti. Sulle classifiche sì. In classifica sì, comunque ormai Celine Dion ospite fissa in classifica. Ma Frankie, le novità di questo 1998 quali sono? Sono queste. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Illusion never changed into something real. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. X24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Frankie, non mi guardare così, non mi guardate così in regia. Fa male entrare sulle note di questa canzone che beh, loro ballano. Piace, eh? Beh, sì, è molto bella. Siamo nel 1998. Io sono sempre Alessandra Fiori. Qui io c'è sono sempre Franco lui. Schipani, ciao. E c'è Chiappini che vuole tanto rialzare. Frankie, chi è? Allora, prima abbiamo ascoltato Thorn di Natalie Imbruglia. Con questo brano pensa che lei è stata candidata anche ai Grammy Awards. Ovviamente arrivata seconda, perché al primo posto è arrivata lei, immancabilmente Céline, certo, Dion, con il brano che abbiamo ascoltato prima. Questa invece in sottofondo è Crush di Jennifer Page. Comunque Thorn, che abbiamo ballato come matte, sembra un successo grandissimo, un po' effimero. Sì, però vedrai che in futuro lo campioneranno sicuramente. Ah, dici? Ma niente si crea. Comunque non è per niente effimero il viaggio di Giovanni Paolo II, che dal 21 al 26 gennaio di questo 1998 va a Cuba. Ed è la prima volta per un papa. Il pontefice arriva nell'isola e viene accolto da Fidel Castro. Che podemos ofrecerle in Cuba, santidad? Un pueblo con menos desigualdades, menos ciudadanos sin amparo alguno, menos niños sin escuelas, menos enfermos sin hospitales. Queste sono le parole di Castro, però sono quelle di Giovanni Paolo II a restare nella storia, perché Wojtyła lancia un appello. Cuba tiene un'alma cristiana y eso la ha llevado a tener una vocación universal, llamada a vencer el aislamiento, a abrirse al mundo, y el mundo debe acercarse a Cuba, a su pueblo. Possa Cuba aprirsi al mondo e il mondo aprirsi a Cuba. Sono parole storiche, accolte con grandissimo entusiasmo dalla popolazione cubana. Il Papa chiede la fine dell'embargo a Cuba, per Cuba. Oggi, Franco, a distanza di 20 anni, colpisce un po' vedere da quanto tempo e da quanto lontano è partito il processo. Sì, lontano, però ci è arrivato. Ed è stato un momento emozionante anche per noi che eravamo negli Stati Uniti, perché questo è stato veramente un viaggio storico. Beh, mettiamo qualcosa in tema? Nessun dorma, nessun dorma. Tu purio principessa, nella tua fredda stanza. E questo è Nessun Dorma. Michael Bolton si è cimentato, ci vuole molto coraggio. Moltissimo. Alessandra, non è andato benissimo, però insomma una bella faccia tosta, dobbiamo dirlo. Tu stai per andare verso Sanremo, io sì, lo perché so. Lui ha partecipato lo so, a Sanremo lo so. Quell'anno. Però prima ti voglio dire che il 1998 è un anno cruciale per l'euro, perché la moneta unica che oggi è così profondamente ed evidentemente in crisi, nasce a maggio. 11 sono gli stati membri che rientrano nei parametri: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e appunto Italia. A dicembre del 98 vengono fissati i tassi di conversione delle 11 valute europee. A chiudere gli accordi è il governo Prodi e tra i più grandi fautori c'è l'allora ministro del Tesoro Ciampi. Nel 1998 Romano Prodi teneva una lezione all'Università di Bologna sul miracolo dell'euro. Sentite cosa diceva. È tutto un fermento in questa Europa, è tutto un fermento e l'euro lo sta accelerando, cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico. Tutto questo vi dà l'idea di una Europa che è di fronte a una fermentazione politica ed economica, tutte queste fusioni, tutte queste concentrazioni, la redazione della moneta unica, che tendono fatalmente, che ci aiuteranno a creare veramente delle strutture sovranazionali. È interessante vedere come la Gran Bretagna, che è fuori dall'euro perché Blair aveva si era impegnato di fronte ai suoi elettori di non entrare nell'euro. Sono passati quasi 20 anni da queste parole di Romano Prodi e quello che sembrava un miracolo, insomma, oggi lo vediamo, le cose sono un tantino diverse. Dopo la Brexit, le parole di Marine Le Pen fanno parlare e temere addirittura per una Frexit e l'euro, insieme all'Europa, è sempre più in crisi. Invece, Franky, il festival non è in crisi. Il festival fu presentato da Raimondo Vianello, affiancato da Eva Herzigova e Veronica Pivetti. Serata finale 15 milioni, share 62,70%, media delle serate 13 milioni. Insomma, non male. 52% di media. Ecco, davanti a questo grandissimo pubblico televisivo vince questa canzone. Senza te o con te la mia vita è difficile, ma non è finita. In salita lo so, penso che ce la farò. Annalisa Minetti con Senza te o con te, vincitrice del festival dal 1998. Ho capito cosa vince, ma nel 98, in quel festival lì, c'è qualcosa che proprio ti piaceva tanto tanto a te? Sì, ci sono due momenti di grandissima poesia. Sarà questo rumore che non può spiegare. Sarà messa per tutta gente che non tiene niente, volessa che sto cielo sarà messa per tutta gente che non tiene niente. Quando la luna cala l'altra ricomincia, ombra, luce, guerra, pace. Quando una luna cresce, l'altra svanisce. Acqua, fuoco, pieno, vuoto. A tutta nascuna si dà nascuna. A tutta nascuna si dà nascuna. Sarà sta musica che viene e se ne va. Sarà messa per tutta gente che non tiene niente. Scendesse l'acqua santa per terra non piova. E frutta, miele, pane, pina nuova. Giuvesse che giuvesse, giuvesse macaruna. E predemi e zaviga sarà andata. Insomma, fosse carna rastuta e tutta l'acqua e marvina andavata. Pure sta castuciela, stuciela. la tua santa petera d'un chiodo e frutta miela, pane, vino nuovo. Uvessa che uvessa, uvessa macaruna e prede mia viga sarà andata. La montagna è somma, fossa carna rossuta e tutta l'acqua e mare in annavata. Uvessa che uvessa, uvessa macaruna e prede mia viga sarà andata. La montagna è somma, fossa carna rossuta e tutta l'acqua e mare in annavata. Mix 24, musica e storia. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1998 e qui con me, Alessandra Fiori, c'è Franky Schipani che ci ha detto che ci sono due momenti di vera poesia a Sanremo. Assolutamente. La prima, che abbiamo ascoltato prima del break, era la nuova compagnia di canto popolare che quest'anno festeggia il 50° anno di attività. 50. Che Dio ce li preservi, perché sono fantastici. Il brano era Sotto il velo del cielo. E questo invece è Che sarà di José Feliciano. Attenzione, perché questa canzone, che è stata scritta da Jimmy Fontana, Franco Migliacci e Carlo Pes, pensa che Jimmy Fontana si è veramente sbattuto per questa canzone. Ha convinto José Feliciano, che all'epoca era uno dei maggiori artisti interplanetari, è andato a Los Angeles, ha registrato una canzone in spagnolo, una in italiano, una in inglese, lo ha portato a Sanremo convinto che poi dovesse cantarla con lui. Invece l'RCA gli faceva lo sgambetto, perché non gli aveva detto a lui che la canzone l'aveva proposta a Morandi. Quindi Jimmy Fontana si arrabbia e dice: ma allora così, e allora me ne vado. Allora l'RCA, siccome Morandi l'aveva rifiutata, che cosa fa? Prende i ricchi e poveri che si erano comportati bene l'anno precedente, quindi hanno scommesso su di loro e hanno fatto bene, perché infatti bene. La versione del mondo più conosciuta di questo brano, a parte José Feliciano, di chi è? Dei ricchi e poveri. No. Di Nicola Di Bari. Però non mi puoi fare tranelli così. Di Nicola Di Bari, il suo cavallo di battaglia in Sud America. Senti Franco, ma mentre succede tutto questo, come dire, questo guazzabuglio, anche in Italia succedono un bel po' di cose in politica, perché il 6 ottobre la maggioranza di Rifondazione Comunista guidata da Fausto Bertinotti ritira l'appoggio al governo Prodi sulla manovra economica e il governo cade per un voto. Il 21 ottobre nasce così un nuovo governo di centrosinistra ed è guidato da Massimo D'Alema. Non è stata una lunga trattativa. Questo lavoro è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri. Come vede, non ho il volto di un insonne disperato. Quindi, nel corso del pomeriggio di ieri si sono avute le opportune consultazioni e si è formata la lista dei ministri. Quindi, un pomeriggio per formare un governo di coalizione nuovo, del tutto nuovo, nel quale entrano due formazioni politiche che non erano nel governo, io credo che si sia trovato un equilibrio. Nella condizione data sono abbastanza soddisfatto. Ecco, quindi D'Alema forma il suo governo e ci sono anche due tecnici, Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato. Un'altra novità sono le numerose presenze femminili come donne ministro. Sono sei e per la prima volta una donna guida il Ministero dell'Interno. È Rosa Russo Iervolino. Intanto la segreteria del partito passa a Walter Veltroni, che prende il posto di D'Alema, che adesso è al governo. Ma del potere che cosa le piace di più? Allora, del potere mi piace questo. Il potere è un modo per rimanere in presa diretta con la realtà e per cercare di risolvere i problemi delle persone. Quando la politica non ha potere rischia di diventare propaganda. E quindi in questo senso discorso, certo, retorica. Certo. E quindi in questo senso il passaggio da tanta opposizione al potere l'ha costretto a un salto di mentalità anche se forte. Guardi che il PC era un partito che non ha mai governato l'Italia. Beh, governava. Però ha esercitato con molta cura il potere locale, per esempio, proprio perché i dirigenti del PC erano consapevoli che questa dimensione della politica non doveva essere smarrita. cioè non volevano diventare dei propagandisti. Il governo D'Alema si regge sui voti dell'Udeur di Cossiga e del Partito dei Comunisti Italiani di Armando Cossutta, una nuova forza politica che nasce dalla scissione di Rifondazione Comunista. Infatti, in dissenso con la scelta di Bertinotti di far cadere il governo Prodi, una parte di Rifondazione si stacca dal partito. Ma c'è anche un'altra novità nella politica italiana, ed è il partito fondato da Antonio Di Pietro. Nasce l'Italia dei Valori. Lo penso come alla fine mi hai ridotto tu, non capisco dove mi ci avresti sì portato tu, quando penso a come mi hai preso in giro, però non capisco come sia difficile sbagliare più, io no, io no, io no, io non ti lascerò mai. Io no, sai, te, ed aspettavo come, come un cane quando non c'è più, non c'è più il padrone. Ogni riferimento alla notizia precedente è puramente casuale. Puramente. Sì, questo è Vasco Rossi con Io No, che vince il 35esimo Festival Bar. Sono 8 puntate, come si sa, l'estate, grande manifestazione presentata nel 1998 da Fiorello e Alessia Marcuzzi, che si conclude alla grande nella mitica Arena di Verona. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato troppo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho pensato al suono del suo nome, in base alle persone, ho pensato tutto in come mettere a frutto una bella amicizia. Max Gazzè e Nicolò Fabbi, che si sono incontrati quando erano giovanissimi nei pub romani, in questi piccoli locali dove saranno insieme quando erano completamente sconosciuti, che invece nel 1998, con questo vento d'estate, Max Gazzè e Nicolò Fabbi dominano le classifiche. Attenzione! Attenzione! Perché? Perché il protagonista assoluto italiano delle classifiche del 1998 è un altro. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami, con la volontà e l'impegno. Rinventami. E questo è Renato Zero con Cercami, che è soltanto uno dei brani di Renato Zero in classifica nel 1998, perché ne è veramente un'infinità, cara Alessandra. Caro Franco, ma tu sei un sorcino dentro? Non sono un sorcino dentro, però per processo osmotico, dato che mia sorella Linda ha tutti i dischi di Renato Zero, tutti i libri scritti su Renato Zero, tutti i manifesti, credo, stampati su Renato Zero, insomma, anche in qualche tu, modo ce l'ho di là, entro dentro casa e vedo Renato Zero dappertutto. Comunque sappi che questo vinile Chiappini non ce l'ha. Invece, intanto, il 3 febbraio del 1998, una tragedia apre un caso giudiziario tra Stati Uniti e Italia. Il 3 febbraio, infatti, a Cavalese, sulle Dolomiti, un aereo militare statunitense trancia il cavo della funivia. La cabina precipita, muoiono 20 persone. È la strage del Cermis. Sembrava tutto a posto. Ho controllato l'altitudine, ho guardato dove eravamo. Sono il navigatore e devo sapere esattamente dove ci troviamo. Guardo in giù e vedo un lago che voglio trovare sulla mappa. Poi alzo lo sguardo e all'improvviso vedo un cavo di fronte a me. Abbiamo ripensato al volo e ho rivisto me stesso. Siamo a 1500 metri sopra il lago di Garda, è un lago bellissimo. Ho preso la camera, è stata l'ultima volta che l'ho usata. Ho ripreso un po' intorno e ho sorriso in camera. Proprio quel video di cui il pilota americano parla in questo documentario del National Geographic è al centro del processo. I due piloti volavano troppo basso, come era stato anche più volte denunciato dalla popolazione del posto. In ogni modo, con una sentenza a sorpresa, la corte marziale assolve il pilota. E il 5 maggio del 98 c'è un altro gravissimo disastro, quando una terribile frana di fango investe la provincia di Salerno. Bracigliano, 15, Siano, i comuni più colpiti, ma soprattutto Sarno, dove si contano 137 delle 160 vittime totali. Una pioggia incessante, il dissesto idrogeologico provocano la catastrofe di cui ancora oggi si cercano i responsabili. Cascatamento montagna di Sarno e in alcuni punti il terreno superava l'ambulanza. Una montagna nera. Fui inghiottito da questo fiume di fango. È molto molto bravo. È fatto un disastro, non ci mai ricordiamo. Nessuno ci aveva riferito né di case demolite né di morti. Una diecina ne ho viste io completamente sventrate. Abbiamo visto la morte con gli occhi. Noi eravamo proprio isolati. E mi scopo, non c'è organizzazione. So open up your morning light. Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. And you're dancing like you're naked. Ooh, it's almost like we're sexing. Oh yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh girl. Step back, you're dancing kinda close. I feel a little pull coming through on you. Now girl, I know you felt it. Boo, you know I Don't Wanna Wait, Paula Cole and Too Close, Next, che nel 1998 l'hanno fatta un po' da padroni nelle classifiche mondiali, mentre invece in Italia troviamo questi due artisti. Sere d'estate, dimenticate, c'è un dondolo che dondola, che belle scene. C'era una mucca, un asinello e un bue. C'era una notte con una sola stella. Però era grande, luminosa e bella. E se ci va, magari andiamo al mare. Così nell'acqua potremo sguazzare. E poi nuotare, fare il morto a galla. Controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si chiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va. Erano Zucchero con Blue e Alex Britti, grandissimo chitarrista. Ho capito che ti piace molto Britti. Mi piace molto come canta, mi piace moltissimo anche come chitarrista. Se lo senti alla chitarra acustica, non ha bisogno di amplificatori, in un bar, seduto su uno sgabello con... ti fa veramente impazzire, perché è veramente un grande. Questo brano è Solo una volta. Solo una volta. 1998, l'avevamo annunciato, anno del trionfo di Titanic agli Oscar. 11 statuette su 14 candidature, eguagliando così il record di Ben-Hur. Però, Frankie, in sala c'è quest'altro film. Chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. The Truman Show con Jim Carrey, il film ispirato e che a sua volta ispira i reality show, sì, che stanno invadendo le televisioni di tutto il mondo e che a breve arriveranno anche in Italia, e naturalmente poi noi ne parleremo. Ma intanto nel 98 in sala c'è anche quest'altro film. Conosci il soldato Ryan? Come? Il soldato Ryan, James Ryan. Jimmy Ryan? James Francis Ryan. No, James Francis Ryan. Forse dovremmo dividerci in tanti piccoli gruppi, per girare per i boschi come Hansel e Gretel gridando il suo nome. Prima o poi dovrà pur sentirci. Ryan! Forse quelli del posto l'hanno visto. Conoscete, scusami, parli... Naturalmente è Salvate il soldato Ryan, per chi non l'avesse capito, di Steven Spielberg con Tom Hanks e Matt Damon, ed è il racconto dei giorni dello sbarco in Normandia. Invece, c'è anche quest'altro. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. In questo posso vivere. Ma se io salgo finito, su finito, infinito, 88 tasti sono finiti, ma io sono infinito. Non mi è chiarissimo, non so te. Però è la leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, basato su un 900 di Baricco, che tu mi insegni ha una colonna sonora. Una colonna, infatti, queste domande musicali dovremmo rivolgere al maestro Ennio Morricone, che ha realizzato questa stupenda, meravigliosa colonna sonora. Però, Franky, nel 1998 la rivoluzione arriva in televisione e arriva in America, perché il 6 giugno va in onda la serie delle serie, quella che cambia il costume raccontandolo, che è stata, pensa, definita una sorta di seconda rivoluzione femminista. Venerdì sera, a surrogato di concreti eventi personali, Samantha, Miranda e Charlotte erano venute tutte e tre da me per vivere indirettamente il mio primo appuntamento ufficiale con Mr. Big. Oh, tesoro, è favoloso. Brava. Sembrano tette su un toaster, ma su te funziona. Beh, ammettiamolo, sei vestita di nudo. Di un po', vuoi fare sesso con lui stasera? È il nostro primo appuntamento. Non è che vuol far sesso, ha solo il look del sesso. Esatto, sono il trailer. Giusto, se capita, capita. Sex and the City. E la televisione non sarà mai più lo stesso, diciamo la verità. Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, le protagoniste della serie che poi ha un po' sdoganato il tema del tabù per eccellenza, il sesso. Pensa che tra il 98 e il 2004 ha vinto 7 Emmy e 8 Golden Globe, 100 episodi, con la City, che naturalmente è New York, che poi è la quinta o forse la prima vera protagonista della serie. Che vuoi dirmi? Che a me ha rovinato la vita. Perché? Perché tutti gli italiani che venivano a New York mi portavano immancabilmente a vedere i soliti show di Broadway. Ripeto, io ho visto Cat almeno 11 volte, certo, non ce la facevo più, però non mi potevo esimere. Ecco, da quando è iniziata questa serie televisiva, dopo un po' venivano: senti, ma andiamo nel bar dove loro comprano i cupcake? Andiamo lì. Lo sai che Migliaccio c'è stata e ha fatto il tour? Ah, beh, infatti hanno fatto il tour di Sex and the City, eccetera. Ma la cosa tragica ancora di più è che Manolo Blahnik, Manolo Blahnik, le cose importanti vanno, ecco, lo vedi, lo vedi quanto mi intendo di scalare. Però il negozio di Manolo Blahnik, yes, si trova sulla 54esima strada, è davanti al MoMA e accanto alla casa di Paul McCartney. Questo lo so, sai perché? Perché era sotto casa mia. Cioè non si va più al Guggenheim, si va da Manolo. Non si va più, si va anche al MoMA. Però la fila, tu non sai se era per i biglietti del MoMA o per la gente che voleva entrare dentro e comprare le scarpe delle protagoniste di Sex and the City. E poi non sono proprio economiche. No, ricordo che c'erano parecchi zeri in cielo. Poi mi diceva: ma tu lo conosci lui? Ma come, sotto casa? Non gli puoi chiedere uno sconto? Dico: ragazzo, sì, sta sotto casa, ma insomma io non l'ho mai comprato le scarpe da donna da strano, lui. Strano, comunque io non so se c'è qualche legame con Sex and the City. Ma nel 98 la Food and Drug Administration, che è l'ente statunitense che regola prodotti alimentari e farmaceutici, commercializza un farmaco che è destinato anche lui a cambiare molte cose nella vita sessuale di molti e comunque nella mentalità di tutti. È il Viagra, Franky. E poi sempre, non commenti, vedo, sempre no, negli Stati Uniti arriva un'altra novità. Il 7 maggio la Apple presenta il primo Mac. È la rivoluzione dell'estetica dei computer. Franky, come vuoi festeggiare la quasi fine di questo 1998? Con questo brano. I wrote to love. E dato che hai nominato il Viagra prima, questo brano si intitola Horny 98 Mustivers Atsy and Juicy. Attenzione, ho paura, me lo devi proprio spiegare bene. Horny 98, arrapato 98, ah. Mustivers Hot and Juicy, calda e succosa. Ma quanto sei esplicito, Frankie. Vero? Molto. Ma è il nome del gruppo, è il nome della canzone. Hai ragione, Alessandra. Ma prima di chiudere, non si possono non ricordare due eventi sportivi di questo 98, perché Marco Pantani vince il Giro d'Italia e trionfa al Tour de France. E soprattutto è l'anno dei mondiali di calcio. Si gioca in Francia e proprio la Francia vince. L'Italia si ferma ai quarti di finale contro i padroni di casa. Insomma, perdiamo ai calci di rigore. Ma adesso è il momento della scelta di Antonella Migliaccio, oh, che oggi era un po' schizofrenica e un po' pazza, un po' più del solito, e quindi era indecisa tra due brani. Alla fine abbiamo detto, va bene Antonella, tutti e due, no? E allora, il primo è molto amato dalle ragazze, molto. Ne ascoltiamo un pezzettino, ed è Lenny Kravitz, If You Can Say No, ed è questo qua. Poi Frankie, c'è la seconda invece scelta, che forse mi piaceva già la prima, quindi sono sicura. A te piace Lenny Kravitz, vero? Piace molto. Invece poi che cosa ha scelto? Ha scelto un'altra cosa un po' più alternativa, diciamo, di un gruppo che già dal nome dice tutto, una scelta molto molto interessante. Si chiama, erano i Prozac Più, te li ricordi? Il 1998 è l'anno delle pasticche, è l'anno di molti farmaci. E è un gruppo, pensa, di Pordenone, che tu lo sai, io non dico a te pensa perché mi do un tono, Franco, ogni tanto. Sì. Comunque sono di Pordenone, si formano nel 95, vanno avanti per una decina di anni, e questa qui è Acida. Noi ci risentiamo nel 1999. Stanno finendo gli anni 90. Ciao da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori. Vi lasciamo con i Prozac Più, Acida, a venerdì prossimo. Ciao. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. Acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande come una città, una gigante. Acido suono, sento solo te, questo che cos'è? Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è? Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Si può, come un acido. Mi sento grande come una città.